lights are on. Eccoci qua in lieve ritardo, 21.03, ma avete anche seguito le vicende legate allo sgombero del nuovo Cinema Palazzo. C'è stato un corteo qui in San Lorenzo questo pomeriggio e quindi è stata fatta anche un resoconto di questa giornata. Adesso dunque prove tecniche di trasmissione fino alle 22.30 circa. Questa sera non ci sarà in onda 25 o'clock. www.ondarossa.info naturalmente per quanto riguarda la possibilità di ascoltarci via streaming. Per cui vado a salutare Maya in Sardegna insieme a Nicola Locci di Stigmate, Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo, Daniele Santagiuliana di Test in Vault, Alessandro Dotto Fiamignano nella Valle del Salto, quindi Abruzzo. Cristiano Bocci in quella della Toscana, Sascha Rovelli di Lucesia da Bellinzona, Enrico Cerrato di Petrolio dal Piemonte, Arianna Degni Lombardo, Flavio Derbecante di Noise Cluster. Un grosso abbraccio ad Antonio Zoviet in quel di Firenze come omicidio, Marco qui a Roma. Inoltre vado a salutare Ilaria qui a Roma, Gianluca Becuzzi, vecchia conoscenza musicale. E prima di iniziare un grosso abbraccio anche a Francesco Cornello in quel di Bergamo. E quindi eccoci qua, abbiamo messo a posto le ultime cose. Dicevo, iniziamo con Anna von Auswolf. Ci siamo goduti in queste settimane questo ultimo suo lavoro, All Fox Fly. Ancora una volta vado a ripetere un album incentrato su questo organo della chiesa, di una chiesa di Göteborg, dove Anna von Auswolf è andata un po' a registrarsi questo disco dedicato al parco di Bomarzo, non lontano da Roma. Un album caratterizzato dalla mancanza della voce, ma indubbiamente c'è la magia di questo organo suonato divinamente. Per cui ci ascoltiamo Entering e Outside the Gate. La maestosità di questo organo suonato da Anna von Hauswolf in questo All Fools Fly, ultimo lavoro, credo che sia il quinto se non ricordo, a 2 anni di distanza dallo splendido Dead Magic. Molto evocativo, tenendo conto appunto che si usa soltanto un organo, a parte qualche interferenza elettronica sparsa qua e là. E a sentire c'è anche qualche lievissima intrusione prog, chiamiamola così, forse perché proprio l'organo porta a pensare ed andare verso un certo immaginario degli anni 70, un immaginario che forse è presente anche nell'ultimo lavoro di Like Awake di Stefano Diserio, che saluto. Una suite di circa un'oretta, un formato che spesso usa il buon Stefano. Un album che si chiama At the End of the Dream, Where Nothing Remains, Symphonic Noise, che esce a poca distanza dalla collaborazione insieme a Noise Cluster. Quindi, essendo una suite molto lunga, appunto, leggo qui proprio di 65 minuti, sarò costretta a dividerla quantomeno in 4 parti. Per cui ci andiamo ad ascoltare i primi 10 minuti di questo ultimo lavoro di Like Awake. Thank you. La prima parte dunque di At the End of the Dream, Where Nothing Remains. Ultimo lavoro per Like a Week, Stefano Di Serio. Saluto Maria qui a Roma, Isetual in quel di Milano. Andy Rivieni di Attualità Nera, progetto di Industrial Noise. Jean-Claude Berthaud, immancabile della Val d'Aosta. Leggo due parole scritte da Stefano Di Serio proprio sull'uscita di questo album, che in realtà esce ufficialmente nel gennaio 2021, quindi questa è, come si suol dire, un'anteprima. A 3 anni da Crawling Through Abyss of Pain, Symphonic Noise, ho voluto dare un successore a quell'album. L'intenzione era di estremizzare la fusione di parti sinfoniche e noise, non solo di accostarle. Concetti antitetici apparentemente inconciliabili, ma che ben rappresentano l'universo Like Wake. Ho voluto inserire nuove sonorità, violino, voce, flauto, quest'ultimo suonato poi da Fulvio Biondo di Solar Lodge, che saluto. Continua Stefano, ho quindi deciso di fare da solo, utilizzando un synth con l'arpeggiatore per il violino e dei campioni scaricati dalla rete e completamente ricostruiti per la voce, perché anche la voce sarà presente più avanti in questo lavoro. Questo album è il risultato di 3 anni di lavoro in solitudine, dove ogni istante della suite è stato pensato più volte, non c'è nulla di casuale. Ogni istante di questo suono è un pezzo di vita che sta lì perché quello e solo quello è il suo posto, un tentativo di rappresentare l'oscurità, quell'oscurità che ogni tanto si dirada per poi tornare più oscura. E dopo oltre 40 anni, se il modo espressivo si è modificato, perché è così che deve essere, alla radice c'è sempre il disagio di chi si trova in un mondo non suo, sapendo che il proprio non esiste. 40 anni anche perché il buon Like a Wake iniziò proprio negli anni 80 con la Minus Abends e con sonorità più vicine al noise. Quest'ultima componente appunto viene ripresa qua e là e sposata con questi suoni anche organistici, se vogliamo. In Piemonte c'è, oltre Andy Rivieni, anche Urnus Island, che vado a salutare, un altro progetto storico industrial. Noi si va avanti e andiamo nell'universo Raffaele Pezzella, quindi An Express Sounds Label. Anche oggi un passaggio per questo compendio che va ad analizzare, a scavare nella sotterranea scena industrial proveniente dall'Iran. Si chiama Anthology of Persian Experimental Music, volume 2, Iranian Music Survey. E quindi una serie per la maggior parte sconosciuta di artisti. Il primo però già lo abbiamo apprezzato in passato con il primo volume di questo compendio dall'Iran. Si chiama Xerxes the Dark e questa traccia si chiama The Hiding. Poi ci sarà Sorab Motabar con While Waiting for a Spring. e dopo Xexes in the Dark. Climi decisamente ambient, qualcosa di più disturbato, appunto di Sorab Motabar, qualcosa al limite dell'IDM in certi aspetti, di suono spezzettato, eccola qua, While Waiting for Spring. due momenti emotivamente diversi estratti da questa antologia, nome esatto, Anthology of Persian Experimental Music, volume 2, number 2 dunque. Operazione perpetrata naturalmente da Raffaele Pezzella con la sua Inexpress Sound label, ormai famosissima da queste parti e in questi spazi. Etichetta che viene da Napoli al pari della Zero K. Ma anche naturalmente della 8 Tower Records, che non avevo dimenticato. E il fatto che tutti questi suoni incredibili provengano dall'Iran è secondo me un valore aggiunto, abituati come siamo a tante bellissime cose provenienti dall'Europa, ma quando viene dall'Asia, per esempio, secondo me c'è un fascino maggiore, se vogliamo. Come si sente forte anche la componente etnica. Bene, dunque lasciamo questo compendio e torniamo qui in Italia, e lo facciamo con un duo, un progetto molto interessante formato da Cosimo Mungheri e Davis Granziera. Quest'ultimo conosciuto anche come Teatro Satanico. Il progetto si chiama Chem e noi ci andremo ad ascoltare l'ultimo lavoro, che è uscito ormai un anno fa, dal nome Magma numero 4, un vero e proprio magma di psichedelia elettronica e naturalmente sperimentazione, un altro gioiello che esce attraverso la Lucesia. E si apre appunto con l'iridescente psichedelia della prima traccia dal nome Chaos. questo lungo momento, diciamo, psichedelico, assai lisergico nell'approccio e nella composizione di questa lunga Chaos, quasi 12 minuti, per quanto riguarda Chem, quarto lavoro che forse non a caso si chiama Magma 4, con il buon Cosimo Mungheri in quel di Taranto che vado a salutare. Solo l'ipocrisia ma riposta, solo l'ipocrisia ma riposta. E Davis Granziera, ricordo, di Teatro Satanico, progetto a noi molto caro, album con tanti riflessi esse diversi tra di loro. Sentite questo passaggio quasi di dub elettronico, e l'elettronica più avanti nel disco sarà più protagonista e sarà più, come dire, coerente con lo spirito di questo spazio, prove tecniche di trasmissione. Ma tornando per un attimo a Chaos, c'è chi ha menzionato i CSI, io mi sento anche di menzionare i Loop, per chi se li ricorda, che fu una meravigliosa avventura sonica negli anni 80-90. Un album che comunque in ogni caso mostra l'estrema versatilità di questi due artisti ormai protagonisti da molti anni nella scena, diciamo, industrial nel senso più ampio del termine. Dunque lasciamo Magma 4 per ascoltarcelo naturalmente la prossima settimana, e come tutti ormai sanno, di novembre andiamo sempre a celebrare John Balance e Peter Christopher, sono morti in questo mese ma in anni diversi, il primo nel 2004, il secondo nel 2010. Abbiamo già detto anche della importante produzione postuma riguardante i Coil, compreso questo Swanyard uscito nel 2019 attraverso la Infinite Fog Productions, etichetta russa. Materiale ignoto dal 93 fino al 96 e che è stato, guarda caso, ritirato fuori da questa etichetta. Lui riconobbe la sua e tra le teste tagliate. Lui riconobbe la sua. Ci andiamo ad ascoltare Seminal Master Backwards e poi I Your Master It's My Blood. Dio è una droga, è una sostanza. Dio.